per quanto riguarda ieri? No, poi c'è anche Pettigiani che me l'ha mandata per mail, però cortesemente la ripeterà per voi tutti. Che allora cominci, Diana. Nelle categorie delle vittime del terrorismo, delle brigate rosse, no, ragazzi, per piacere. Allora dicevamo nelle categorie delle vittime delle brigate rosse c'è della giornalista. Stessa cosa. Dal punto di vista, anche i partigiani colpirono dei giornalisti della RSI. Dal loro punto di vista erano membri dell'apparato propagandistico nemico. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, ci mettiamo a fare il caso per caso e non ne usciamo. Magari ci saranno anche altre organizzazioni che non hanno mai colpito giornalisti o civili. Non c'entra. Giustamente noi li identifichiamo come, fra virgolette, terroristi, nel senso che compiono un'azione violenta senza che noi riteniamo abbiano la legittimazione a farlo. Il giudizio, come vede, è un giudizio politico. Noi riteniamo che i partigiani avessero ragione a sparare nei confronti dei gerarchi delle RSI, e se avessero sparato contro qualche giornalista non è per questo che noi avremmo pensato. I partigiani hanno ucciso Giovanni Gentile, che era un filosofo, era un docente universitario, non era un militare, non era un poliziotto, però hanno ritenuto di colpire in Giovanni Gentile un simbolo del regime. Si può discutere se questo fosse opportuno, non opportuno, giusto, non giusto, quello che le pare. Resta il problema che noi diamo un giudizio sostanzialmente positivo della resistenza, perché condividiamo, chi le condivide, le finalità politiche di quell'azione. Viceversa, le Brigate Rosse e gli altri gruppi che hanno dato vita al terrorismo negli anni 70 avevano delle finalità non con un progetto di guerra civile non condiviso dalla stragrande maggioranza della popolazione, compresa la netta maggioranza delle persone di sinistra. Quindi in questo senso il giudizio è un giudizio politico, non è un giudizio. Quando si arriva, no, forse non ci siamo capiti, Per piacere, non voglio sentire brusio. Quando si arriva a sparare, si entra in un'ottica di guerra, il diritto fa due passi indietro e diventa tutto decisione politica e atto volontario. La norma, sì, certo, esiste anche un diritto di guerra, esiste un codice penale militare di guerra, in genere applicato sempre a chi perde. Ha mai visto un processo a criminali di guerra di eserciti che hanno vinto? Io non ne ho visto uno. Quindi, come vede, quando si scende su quel piano, quello che conta è la decisione politica e non la definizione giudiziaria. Poi, avevo visto, a parte Pettigiani che deve fare, sì, dica Rosa. Era più raro che ci fossero azioni internazionali, ma non era del tutto. Per esempio, nel 1934 i terroristi Ustascia terroristi, continuiamo a usare questa espressione, per la verità con la regia dei servizi segreti italiani, assassinarono re Pietro I di Jugoslavia, il ministro dell'interno francese Barthou, che era accanto a lui, a Marsiglia. In effetti sì, era un obiettivo degli Ustascia il re jugoslavo, perché rivendicava l'indipendenza della Croazia, e Barthou, giusto perché era a fianco, gli stava vicino, viene colpito. Però l'azione avviene fuori dal territorio nazionale, solo che questo era più raro nel passato. Questo fenomeno ha iniziato a essere presente dagli anni 60, in particolare ad opera della resistenza palestinese, che colpisce gli obiettivi israeliani all'estero, le compagnie, le sedi della compagnia El Al, per esempio l'azione di Monaco di Baviera, quando vengono colpiti gli atleti della squadra israeliana, a seguito della quale c'è l'azione di Entebbe, vabbè, tutto quello che voi sapete, l'operazione di eliminazione dei dirigenti della resistenza palestinese. In parte questo è attuato anche dalla resistenza o dalle organizzazioni, diciamo, di insorgenza latinoamericane, che colpiscono sia sul proprio territorio che fuori i rappresentanti diplomatici americani, identificando in essi il vero punto, il vero centro di imputazione del potere, in un'analisi per la quale, analisi peraltro per certi versi non del tutto immaginaria, per la quale i governi nazionali erano pure emanazione delle direttive di Washington, l'iniziativa si dirige contro chi? Contro i rappresentanti diplomatici. Chi ha visto un film di Costa Gavras, l'americano, se non l'avete visto vedete, è molto bello, e capisce proprio questo tipo di dinamica. E questo è avvenuto talvolta anche fuori, in particolare con l'emergere di un fenomeno particolare di terrorismo, che è la pirateria aerea. Oggi parleremo un po' della pirateria. Il dirottamento aereo è classicamente fatto fuori del proprio territorio nazionale, spesso contro compagnie di bandiera terze, che non c'entrano col conflitto, e spesso coinvolgendo cittadini di paesi diversi. Quindi, come vede, è un processo che inizia prima e che scompone questa unità statale, per cui c'è il nemico Stato, il territorio all'interno dello Stato, l'insorgenza interna. Comincia ad essere un fenomeno molto più misto. Non so se ho risposto a quello che avevo in testa. C'è qualche altra osservazione? No, cioè qua ieri avevamo definito che come terrorismo fosse indirizzata alla sostituzione del potere costituito, cioè l'azione terroristica è volta a sostituirsi all'ordine costituito. Però cioè, ancora mi viene da pensare, una volta appunto le azioni terroristiche, come potevano essere la resistenza, si sostituivano al potere costituito all'interno dello Stato. Invece ora qual è il potere costituito del terrorismo contemporaneo? Appunto, lei assiste a una serie di progetti. Al-Qaeda, adesso Pettimelli mi fa la domanda, è un progetto. Adesso rispondo. Pettigiani, ormai... La mia obiezione è proprio su questo. Siamo sicuri che esista un unico progetto radicalista globale, e che esista che gli interessi di vari gruppi radicalisti islamici, che sono differenti tra loro, coincidano? Io penso che ci siano diversi gruppi radicali e che i loro interessi, dietro una facciata di legittimazione, perché ricercano di fatto la legittimazione quantomeno a parole, con la parola della jihad, rincorrono interessi differenti e obiettivi differenti, che non siano esclusivamente un califfato globale, ma anche solo dei califfati regionali in cui la giustificazione sia religiosa sia un pretesto per poi prendere potere politico. Siamo sicuri che gli interessi di al-Sadr in Iraq siano gli stessi di al-Shabaab in Somalia o dei qaedisti in Sauditi? Non lo so. E penso che questi progetti possano collidere fra di loro, certo, e in questo modo non portare a una unificazione degli islamisti sotto un obiettivo globale. Allora, Partiamo da un'idea. Von Clausewitz diceva che chiunque fa la guerra la fa in funzione della pace. Nessuno che non sia proprio un maniaco fa la guerra per fare la guerra, ha come fine la guerra. La guerra è il mezzo attraverso cui qualcuno cerca di imporre la sua volontà ad un altro. Quindi in qualche modo cerca di raggiungere un equilibrio diverso da quello esistente. Siccome non trova possibilità o utile passare attraverso altre procedure di tipo negoziale, lo fa attraverso l'uso della forza. In sostanza è questo. I terroristi, guardate che la pensano allo stesso modo, l'errore che fa l'antiterrorismo è che enuncia una cosa e poi se ne dimentica. L'antiterrorismo ideologico spesso definisce il terrorismo come il terrorista, come un soggetto politico che ha finalità politiche e che usa mezzi criminali. Dopodiché però si dimentica di questo e lo considera solo un soggetto criminale. Errore, il terrorista continua ad avere una logica essenzialmente politica e fa la guerra in funzione della pace. Lui vuole raggiungere un diverso ordinamento sociale, l'indipendenza del proprio paese, ha in testa una riorganizzazione dell'assetto di potere, nel quale in genere si propone come nuovo soggetto sovrano. Questo però non significa che sempre ci riesca. Per cui, ad esempio, il caso Al-Qaeda è esattamente il caso di un progetto. Noi siamo di fronte ad un progetto probabilmente di sultanato. La differenza rispetto ad altre organizzazioni terroristiche come quelle che lei richiama, ma potremmo aggiungere per esempio i salafiti, potremmo aggiungere gli algerini, avremmo 10.000 altre cose. La differenza qual è? Il carattere transnazionale di Al-Qaeda. Al-Qaeda non è legata esplicitamente a un solo paese e per di più all'interno anche non arabi a quanto pare. Quindi è un progetto più complessivo e poi, ve l'ho detto ieri, non sono le Brigate Rosse che parlano in arabo, sono la P2 che si vede alla moschea, cioè sono un'internazionale di elite, di gruppo dirigente che cerca di costruire un nuovo soggetto di diritto internazionale avente carattere transnazionale, cioè cerca di tirar fuori un soggetto statale dallo spezzatino di stati che caratterizza il mondo islamico. Questo riuscirà? Io sono molto perplesso, non sono convintissimo di questo, che loro ci riescano, anche perché proprio tengo presente le forti contrapposizioni che si elidono a vicenda. Però da un lato non è importante quello che pensiamo io e lei, perché loro decidono con la loro testa, non stanno a sentire noi. Loro lo ritengono possibile e quindi perseguono questo obiettivo. Che poi riesca o meno, questo lo staremo a vedere. Certa è una cosa, guardate, non facciamo l'errore di pensare di cedere alla propaganda di Al-Qaeda. La propaganda di Al-Qaeda a sua volta è stata rilanciata dalla propaganda americana. Entrambe raccontano la stessa favola, che Al-Qaeda vuole distruggere il Satana americano, vuole distruggere la civiltà occidentale, sogna di far marciare le sue quadrate legioni per la Fifth Avenue di New York. Neanche per sogno. Questa è la propaganda che Al-Qaeda fa per trovare consenso nel mondo arabo. Perché tenete presente che questa vicenda si può leggere anche come una guerra civile islamica fra le elite al potere negli stati nazionali e questo progetto. Il progetto Al-Qaeda non è rivolto solo e tanto contro gli Stati Uniti, ma contro i gruppi dirigenti nazionali del mondo islamico, attenti. Quindi da questo punto di vista Al-Qaeda aspira al riconoscimento da parte degli Stati Uniti, non ha nessuna intenzione di invadere gli Stati Uniti. Sì, certo, essendo un gruppo islamista radicale agita la bandiera della jihad e della conversione all'Islam del mondo, ma il suo disegno politico è estremamente più concreto ed è quello di essere riconosciuto da tutti, prima di tutti dagli Stati Uniti, come portavoce al mondo islamico. La stessa cosa stanno facendo gli iraniani. La bomba atomica iraniana serve a trasformare l'Iran da paese emergente e potenza economica in potenza politico-militare a livello mondiale ed essere riconosciuta come portavoce del mondo islamico. Riuscirà? Non lo so, non credo, c'è il problema che quelli sono sunniti, gli altri sono sciiti, c'è questa situazione. Però guardate, il discorso è questo: gli americani a loro volta trovano comodo rimbalzare l'immagine di Al-Qaeda come gruppo che vuol distruggere la civiltà occidentale per compattare la propria opinione pubblica, trovare consenso alle guerre come quelle dell'Iraq e dell'Afghanistan. Israele trova comodissimo rilanciare la propaganda iraniana sulla bomba atomica, che il giorno dopo in cui Teheran avrà avuto la bomba atomica la sgancerà su Tel Aviv. Trova comodo esibire questa immagine. Paradossalmente sono speculari. Perché? Perché ovviamente questo a sua volta giustifica la posizione intransigente di Israele sul problema delle colonie e sul problema palestinese, dove, caso molto complesso quello israelo-palestinese, dove entrambi i popoli hanno le loro ragioni, devono trovare in qualche modo una quadra in cui entrambe siano riconosciute. Però certamente l'indirizzo attuale di Israele è l'indirizzo di chi cerca di ricavare al massimo, quindi per esempio il discorso delle colonie, eccetera, eccetera, dei coloni, e da questo punto di vista le uscite di Ahmadinejad, che fa i convegni sul negazionismo a Teheran e agita la bandiera della bomba nucleare dicendo un giorno sì e l'altro pure che Israele deve essere cancellato dalla faccia della terra, è perfettamente conforme agli interessi di Israele. Non deve stupire questo, come la propaganda di Al-Qaeda è perfettamente conforme agli interessi degli Stati Uniti. Sono cose perfettamente complementari. Ne parleremo a proposito della guerra, nelle lezioni che faremo sulla guerra. Non so se mi sono spiegato. Allora, Diena, poi c'era Bene. Eh? Ah, ecco. Vabbè, allora, perfetto. Allora, forza. Sì, uno. Relativamente a una delle prime cose che ha detto, che nessuno fa la guerra per la guerra e che i terroristi hanno lo scopo di sovvertire l'ordine costituito. In scienza politica noi abbiamo, analizzando le guerre civili, siamo imbattuti in due tesi che erano il sorgente e il perdurare delle guerre civili, sono l'ipotesi Creed e l'ipotesi Krieger, cioè base a fronte di ingiustizie, di reclamare una situazione diversa dal punto di vista sociale, e l'altra ipotesi, che è quella che in buona sostanza la fonte del conflitto sono le risorse e il loro sfruttamento, e anche in qualche misura l'arricchimento personale dei vertici del... Normalmente questi fenomeni si presentano sempre misti fra di loro, cioè un aspetto che prevale, per esempio può esserci una forma di guerra civile sotto forma di secessione di una parte del paese, i cui cittadini però possono anche stare in altre regioni diverse da quelle che vogliono praticare la secessione. Spesso c'è il fenomeno dell'arricchimento dell'élite. Normalmente queste cause sono sempre presenti contemporaneamente, con un'accentuazione di una cosa rispetto a un'altra. Sì, questo sì, ma non conosco un solo caso di guerra civile in cui non ci sia questo insieme di fenomeni. Quanti? Forza. Due cose. La prima è appunto, volevo chiedere se secondo lei questo progetto di Al-Qaeda nel creare un califfato islamico non sia solamente una, uno dei tanti riflussi della, che c'è stato negli anni della guerra fredda del panarabismo, c'era stato in precedenza, cioè se non sia solo una espressione più radicale di un sentimento già che saltuariamente ripercorre il mondo arabo. Secondo, il fatto che lei ieri ha detto che appunto ci sono dei problemi con il mondo arabo, ci sia una convivenza molto difficile, Huntington dice che le frontiere dell'Islam sono quelle più insanguinate, eccetera, eccetera, no? Però vorrei chiederle se in realtà questa non sia un'affermazione, sia soprattutto appunto da parte di Huntington, cioè appunto politica e complementare agli interessi americani, perché se, anche durante gli anni 90, sia durante gli anni 90 che in questi, come dire, ultimi anni, non mi pare che nel resto del mondo, anche fra, come dire, gruppi che appartengono alla stessa civiltà, no? Cioè, non so, pensiamo alla guerra tra la Russia e la Georgia, il conflitto, eccetera, eccetera, non ci siano dei conflitti. Cioè, se questo. Ho capito. Telegraficamente, sarebbe strano se fosse il contrario. È ovvio che quando si apre una situazione di conflitto, la situazione di conflitto non interessa mai solo i contendenti, interessa e riguarda sempre anche i terzi. Interessa sempre anche i terzi. Perché? Perché il problema è questo: la lite è fra lei e Diena, però io con Diena ho un rapporto commerciale di particolare favore, quindi la sua guerra mi disturba indirettamente, perché per esempio ostacola il rifornimento di petrolio che mi fa Diena. Di conseguenza, siccome lei ha un altro contenzioso secondario con Molinelli che è alle sue spalle, io ho tutto l'interesse a pompare Molinelli perché in qualche modo lei sia distratto dal conflitto con Diena. Viceversa, Bettigiani, che ha un motivo di conflitto anche lui con Molinelli, e però ne ha uno anche con Diena, deve scegliere se schierarsi con me e quindi pompare o approfittare dell'operazione per cui lei sta litigando con Molinelli e quindi cercare di isolarlo, oppure viceversa ritenere che il nemico principale sia Diena e quindi a quel punto scoraggiare l'azione di Molinelli nei suoi confronti perché va isolato Diena. Ho fatto un esempio molto semplice per farvi capire come normalmente la neutralità intesa come assoluta estraneità al conflitto non esiste. Probabilmente la Grecia è estranea al conflitto fra i Tamil e l'India per quanto riguarda che non ha interessi là. Se li avesse, fosse più vicina, non sarebbe estranea e la sua neutralità sarebbe una neutralità interessata. Quindi che gli Stati Uniti, potenza mondiale per definizione, cavalchino scontri interni e che quindi questi scontri interni fra le loro ragioni, oltre che quelle che abbiamo detto, abbiano anche l'intervento di chi va a stuzzicare il conflitto perché appoggia una parte piuttosto che un'altra, perché vuole ottenere un effetto su uno scenario terzo, questo sarebbe strano se non fosse così. Quando mi dicono, ma scusi, ma lei pensa che le Brigate Rosse fossero infiltrate dagli americani, dai servizi italiani, dai servizi russi o no? Io rispondo sempre, ma sarebbe strano il contrario, ognuno deve fare il suo mestiere. È ovvio che se c'è un'organizzazione terroristica che ha quel genere di impatto, tutti i servizi segreti del mondo, compreso quello della Gendarmeria di San Marino e quello del Vaticano, avranno cercato di infilare l'uomo loro dentro. Non fosse altro che per la più stupida delle ragioni, avere qualche notizia da vendere ai servizi italiani in cambio di altro, anche solo per questo. Chiaro? Quindi da questo punto di vista, perfettamente logico, quello che vi dice non è in conflitto con quello che abbiamo detto, è la naturale evoluzione di questo ragionamento. Non so se ho esaurito la sua osservazione o c'è qualche aspetto che non ho considerato. No, io dico, ma perché anche nell'analisi politica politica si dà tutta questa preeminenza ai conflitti fra cristianità e Islam. Cioè, a me non pare che ci siano solo quei, se consideriamo come terrorismo tutto, cioè, come dire. Ma questa è un'operazione che è fatta non dalla politologia in generale, è un'operazione fatta da un'ala della politologia, la scuola realistica che fa riferimento ad Huntington, quella frazione della scuola realistica che fa riferimento ad Huntington. Però obiettivamente non è l'analisi fatta da tutti gli studiosi di relazioni internazionali, se vogliamo essere sinceri, cioè precisi. La cosa ha questa caratteristica. Non è totalmente inventata, perché certamente un elemento di frizione c'è, cioè, come dicevo ieri, obiettivamente l'Islam è il paese che ha, è il tipo di civiltà che ha più difficoltà a compattarsi con la modernizzazione. Però non è estranea, e qui rispondo alla domanda che mi era sfuggita inizialmente. Ma siamo sicuri che Al-Qaeda non è semplicemente una risacca del fallimento del progetto panarabo degli anni 60? Negli anni 60 effettivamente ci fu un progetto di unificare la nazione araba, non islamica, attenzione, araba. Ed era un progetto tendenzialmente laico, era il progetto dei partiti Baas, del nasserismo sostanzialmente. Il fallimento di quel progetto, soprattutto a seguito della sconfitta subita nel 67 e nel 73 della coalizione araba contro Israele, aprì la porta al fondamentalismo. Però attenzione, io non credo che il fondamentalismo sia una semplice ripercussione destinata a spegnersi nel tempo di quelle sconfitte. Perché? Perché il fondamentalismo arabo ha un elemento straordinario nei processi di globalizzazione. Quello che ha messo le vele, il vento nelle vele del fondamentalismo, è proprio il processo di globalizzazione, la valorizzazione del petrolio, la nascita dei grandi mercati finanziari dopo il 73, se vi ricordate in una delle prime lezioni ve ne ho parlato, è uno degli elementi che rende il fondamentalismo islamico un fenomeno politicamente molto più durevole di una semplice ripercussione occasionale, e infatti sta durando ormai da diversi decenni e sta esprimendo soggetti a livello geopolitico internazionale di una certa rilevanza. Quindi no, non è un fenomeno piuttosto marginale, è un fenomeno duraturo, storicamente rilevante, politicamente rilevante, che è in qualche modo il prodotto di questo incrocio assolutamente imprevisto fra modernizzazione e Islam. L'idea, ecco, qui noi stiamo toccando con mano il fallimento di uno dei principali capisaldi dell'ideologia occidentale, l'Occidente che presenta se stesso come quello che il mondo sarà, per cui basta che noi facciamo conoscere agli altri la nostra tecnologia, che gli altri poi scoprono quanto siamo intelligenti e quanto siamo bravi, per cui poi scopriranno il libero mercato, e appresso al libero mercato scopriranno la democrazia, lo Stato di diritto e tutto il resto. Ora, a parte il fatto che lo Stato di diritto e la democrazia li stiamo in qualche modo distruggendo proprio noi, tanto per cominciare, ma per le cose che vi ho detto nelle lezioni immediatamente precedenti, in secondo luogo non è affatto scritto da nessuna parte che tu puoi inoculare elementi di modernità e poi il processo automaticamente continua in quel modo. In questo caso che cosa è successo? È successo che l'impatto della modernizzazione su una società tradizionale che resiste ai valori della modernizzazione ha prodotto un fenomeno assolutamente imprevisto. Il fondamentalismo è un tipo di terrorismo che utilizza proprio le tecniche, le tecnologie proprie dell'epoca neoliberista, rivolgendole contro l'Occidente. Questo è uno dei fenomeni di natura controintuitiva, che è quello di cui parleremo la settimana prossima con il professor Aliberti, quando vedremo come funzionano i modelli di simulazione, a che servono. Mettetevi bene in testa questa cosa. Noi siamo in una situazione in cui ogni decisione, noi ignoriamo gli effetti ultimi, che possono manifestarsi in campi assolutamente diversi da quelli per cui noi abbiamo pensato con la decisione. Noi abbiamo pensato di chiudere le frontiere all'immigrazione per risolvere il problema dell'immigrazione. Il risultato: ci troviamo la mafia molto più potente, perché gli immigrati si affidano all'immigrazione clandestina organizzata dalla mafia. Abbiamo pensato di colpire, che ne so, il terrorismo aereo moltiplicando i controlli di volo. In una certa misura questo ha un risultato, ma magari in un secondo momento è sufficiente che ci sia un attentato e questo fa crollare immediatamente la fiducia e diventa un boomerang. Per cui quelle stesse misure, il loro fallimento, diventano un moltiplicatore di crisi, per esempio il traffico aereo. Questi sono esempi di effetti controintuitivi. Quindi noi, questo è quello che deve entrare, viviamo in un mondo in cui dobbiamo assumere sempre di più decisioni in condizioni di ignoranza. Noi non sappiamo esattamente la nostra decisione, la nostra azione, che effetti ultimi avrà, dall'ambiente alla finanza, dalla criminalità al problema di una pandemia a livello internazionale. Noi non sappiamo se quello che stiamo facendo si esaurirà in quello che noi pensiamo, quello che avevo detto, la complessità si basa sul fatto che fra input e output non c'è una relazione di tipo lineare. Possiamo avere reazioni assolutamente imprevedibili e la simulazione serve esattamente a circoscrivere il rischio di decisioni errate assunte in condizioni di assoluta ignoranza, cioè serve a relativizzare le condizioni di ignoranza in cui noi assumiamo la nostra decisione. Va meglio così? Porrini. Sì, io volevo chiedere, quando ha dato la sua definizione terrorista, che è il partigiano che ci sta antipatico, allo stesso modo il partigiano è il terrorista che ci sta simpatico. È una battuta un po' provocatoria, no, ma c'è del vero. Però si capisce, cioè, più o meno cosa intende lei per, esatto, per definire il terrorismo. Non è semplicemente, questa è un'osservazione che faccio, il partigiano è un terrorista che vince, mentre il terrorista è semplicemente chi perde, perché dalla parte del potere costituito tutti sarebbero terroristi. È ovvio, certo. Basti riflettere su una cosa, con un'eccezione che poi vi dirò: nessun partigiano, nessun insorto, nessun rivoluzionario si è mai definito terrorista, anzi ha sempre respinto sdegnosamente questa qualifica. I tedeschi chiamavano banditen o terroristi i partigiani, ma i partigiani hanno sempre detto: no, noi siamo patrioti, noi stiamo difendendo il nostro territorio da un'invasione straniera. Oppure hanno accettato la parola, il termine partigiano per sottolineare le modalità della loro guerra. Ma anche Al-Qaeda non riconosce come aggettivazione propria quella di terrorista. Anzi, nella stragrande maggioranza dei casi voi vedrete che le persone nei processi ribaltano l'accusa agli imputati, cioè: noi terroristi, voi siete terroristi, terrorizzate la popolazione, applicate la tortura, fate questo, fate quest'altro, voi siete terroristi. L'unico caso di un terrorista che ha detto sì, sono un terrorista e me ne vanto è stato Carlos Marighella in Brasile, che però, attenzione, lo faceva in termini molto polemici, sostanzialmente era un espediente retorico, per dire: è una guerra che tutti e due facciamo, il terrorismo, non sono io solo terrorista, sei terrorista anche tu, il terrorismo non è quello che faccio io, è il tipo di guerra che facciamo tutti e due. Quindi attenzione, perché c'è questo meccanismo per il quale terrorista è il termine con cui si squalifica l'avversario. Ovviamente, se l'avversario del potere costituito vince, cancellerà quella definizione e dirà: noi eravamo i partigiani, gli insorti, i patrioti, eccetera, eccetera. Se perde, nei libri di testo adottati nelle scuole si parlerà del terrorismo in quel periodo. È il completamento di quello, cioè se il terrorista è il partigiano che ci sta simpatico, che ci sta antipatico e viceversa, e siccome i libri di testo li scrivono quelli che vincono in genere hanno poca simpatia per i loro avversari. Se quello che ha vinto è il partigiano, sarà scritto che c'è stata la guerra di resistenza. Se quello che ha vinto è il potere costituito, c'è stato un periodo di terrorismo, punto. Ma, ripeto, è una valutazione tutta politica. Il termine terrorista non è estraneo alla lotta, è interno, è un'arma di propaganda. Se la mettiamo in termini scientifici, dobbiamo parlare di guerra non convenzionale. Dobbiamo parlare di guerriero irregolare. Chiaro? Dopo, in base alle opzioni politiche, gli daremo altra cosa. Molinelli. Dunque, anch'io parto da una sua definizione, che è quella di Al-Qaeda, appunto, scusiamo di questa provocatoria, e cioè l'associazione tra Al-Qaeda e Al-Qaeda. Allora, fino a stamattina, per quanto affascinante, trovavo per un punto incompleto il paragone, proprio perché abbiamo detto che Al-Qaeda ha in un certo qual modo, come associazione che lo chiamano terroristica, la soppressione dell'ordine costituito, mentre la P2, secondo i piani di Licio Gelli, aveva la conservazione dell'ordine costituito. Ora però stamattina sono venuti fuori delle cose interessanti nel suo discorso, cioè comunque dei legami, dei reciproci interessi, se vogliamo anche indiretti, fra il terrorismo e l'antiterrorismo. Per fare un esempio concreto, comunque è abbastanza risaputo, la fonte è Michael Moore, quindi non è molto autorevole, però è abbastanza risaputo che ci fossero dei legami precedenti all'11 settembre fra la famiglia Bush e la famiglia Bin Laden. Okay. Cioè, alla luce di tutto questo, nei piani alti della politica, nei piani in cui si muove la storia, c'è davvero qualcuno che sta facendo la guerra a qualcun altro, o siamo solo noi che siamo dei burattini mossi giusto per far sì che, per dirla al gatto pardo, insomma, bisogna che tutto cambi perché tutto resta uguale? Le do una risposta, come al solito. Molinelli ha la capacità di mettermi nei pasticci, perché fa domande che poi richiedono una lezione intera, che spesso sono già che è già prevista nella cosa, per cui le rispondo. Sì, è esattamente quello che lei pensa, ma è il contrario di quello che lei pensa, perché il problema è che dobbiamo capirci su che significa guerra. Forse guerra non significa più quello che noi pensavamo. Guerra intendo qualcuno che vuole prevalere su qualcuno. Detto schematicamente in questi termini, una guerra c'è. Non c'è dubbio che, perché per quanto, ma voi pensate a quali livelli di rapporti di cortesia si era fra la famiglia del petroliere Bush e il finanziere saudita Bin Laden, perché di questo si parla, che addirittura avevano lo stesso fornitore di calzature, un artigiano piemontese che faceva scarpe su misura, costosissime naturalmente, cose che si potevano permettere soltanto Bush, Bin Laden e D'Alema, fondamentalmente. Ecco, ora, questo che cosa significa? Significa probabilmente che qualcuno ha consigliato all'altro il suo fornitore, e quindi questo significa una consuetudine di rapporto, cioè la vedi proprio la scena, no? Però questo non sarebbe un problema, perché in tutte le guerre possono esserci stati, beh, lei pensi solo una cosa, tutte le guerre della prima guerra mondiale sono state combattute fra dinastie imparentate fra di loro. Questi ormai si sposavano, cominciavano a nascere proprio male anche per via di questi continui incroci, per cui erano tutti emofilia, cioè malattie ereditarie diffusissime, perché ti dà l'idea di quanto fosse stretto l'intreccio anche familiare. Questo non ha impedito che ci fosse una guerra. Quindi, questo. E vengo a una cosa che mi avete chiesto anche lei, cioè, ma l'11 settembre lo ha fatto Al-Qaeda o l'ha fatto la CIA? Questa è una cosa che mi è stata chiesta anche. Allora, mettiamola così, la spiegazione ufficiale non regge, non regge da nessuna parte per una serie di ragioni, sono moltissimi elementi per ritenere che le cose non siano andate come ci hanno raccontato. Detto questo, però, attenzione, perché non è che poi esclusa la soluzione A è automaticamente vera la soluzione B, perché l'alfabeto è fatto da molte altre lettere, può esserci anche la soluzione C, D, E, F, K. In mancanza di informazioni sicure è difficile, ad esempio può anche darsi che la CIA sapesse di quell'attentato, lo abbia lasciato fare perché conveniva, perché già c'era il progetto dell'attacco all'Afghanistan. Variante di questo scenario: la CIA sapeva di questo attentato, i servizi lo hanno lasciato fare, il problema è che pensavano a una cosa molto meno devastante e poi invece gli è sfuggita di mano ed è venuto fuori quello che è venuto fuori. Ci sono molte altro scenario che è stato prospettato. Il Mossad sapeva, oddio, qui c'è una leggenda metropolitana di quelle per cui non sarebbe morto nessun ebreo nelle due torri, a parte il fatto che non è vero, ne sono morti 310-315, non ricordo bene, ma poi siamo seri, ma tutte le immagini, la gente del Mossad che va casa per casa, toc toc, domani non andare al lavoro, sai? Vi sembra realistico uno scenario del genere, cioè su, che va avvisando uno per uno, perché naturalmente quelli hanno l'elenco degli ebrei che stanno, eccetera, poi vanno casa per casa, se domani lascia stare, non andare al lavoro. Perché, fidati, cioè, non è realistica una cosa del genere. Questo è anche uno degli esempi. Poi, sì, è vero che c'è una versione ufficiale non credibile, però è anche vero che ci sono delle leggende metropolitane, una più sballata dell'altra. Quindi, diciamo che avremmo bisogno di più informazioni, però una cosa la possiamo dire, qualche osservazione la possiamo fare. Primo, beh, se la CIA non è stata capace di prevedere un attentato del genere, ci sarebbe da licenziare tutti. Ma non tanto, perché sai, un attentato può sempre sfuggire, per quanto possa essere ferreo il controllo che si ha. Insomma, la Gestapo e l'SS non erano un servizio segreto da poco, però i congiurati del luglio 1944 ci sono andati molto vicini ad ammazzarlo Hitler. E se all'ultimo momento quelli non avessero deciso di fare la riunione nel capanno all'aperto perché faceva caldo, l'avessero fatta una solida costruzione di cemento, Hitler ci restava. Perché lì Hitler sopravvive semplicemente perché l'onda d'urto si disperde sfondando le pareti. Ma se ci fosse stato un ambiente chiuso di cemento armato, quello ci restava. Eppure SS e Gestapo non si può dire che fossero servizi segreti scarsamente efficienti. No, il problema è che sono tutte le modalità dell'11 settembre, questi che fanno scuola di volo, essendo tutti quanti, e il tipo di maneggi che hanno fatto, che hanno realizzato, sono tutte cose che lasciano pensare che è strano che tutti questi movimenti siano sfuggiti per tanto tempo. Comunque ci può stare. La cosa strana è che le teste dei dirigenti dei servizi non sono saltate. Dopo un episodio del genere ci saremmo dovuti aspettare che il capo della CIA, dell'FBI, eccetera, fossero messi nel tritacarne e passati a grana molto sottile. Non è successo. E anche questo è strano. In terzo luogo, questo possiamo dirlo, che la CIA l'avesse saputo e l'avesse fatto fare, che la CIA non l'avesse saputo, che la CIA l'abbia organizzato lei o non l'abbia organizzato lei, l'uso che è stato fatto di quell'attentato è stato quello di aprire l'epoca delle guerre in Medio Oriente, della cosiddetta guerra preventiva. Questo è un dato. Poi cosa viene prima, cosa viene dopo? Il dato è che l'uso politico che è stato fatto di quella vicenda è stato questo. Un momento, bene, perché chi c'ho? Uno, che altro c'ho? Pranio? Sì. Due, tre, quattro, sì. Ok, io devo fare anche lezioni oggi, andiamo avanti. Forza, pettimelli. Pettigelli. No, ormai tu sei pettimelli e lui è molligiani, meglio che lo sapete. Vai. Un appunto bravissimo, appunto, è Riccardo Molinelli. Mi è venuto in mente una affermazione. Bravo, falli l'appunto. Quello che diceva Carl Schmitt, cioè che la politica si basa sul binomio amico-nemico, l'esistenza di questo binomio non esisterebbe. Mi sembra che, soprattutto negli ultimi anni, dopo la rivoluzione che sapevo, dopo quella dell'Unione Sovietica, questo binomio sia sempre più volatile, ma in una certa misura lo sia sempre stato, e soprattutto questo binomio, unito alla considerazione famosa amico del mio nemico e mio amico, ha portato una forma sempre nella storia a una sottovalutazione a lunga durata degli aspetti contributivi, per cui si vengono a creare delle condizioni. Sì, però stai attento, lui stava usando, c'è una classica ambiguità. La dialettica amico-nemico in Schmitt va intesa nel senso amico, nemico, non nel senso di inimicus, ma nel senso di hostis. Lui aveva fatto riferimento invece a rapporti di natura privata, per cui in quel caso non stiamo parlando di hostis, ma al massimo sarebbe stato un inimicus. L'amicizia privata, appunto, come dicevamo, per quanto riguarda l'imparentamento delle famiglie, per quanto fossero matrimoni dinastici che erano veri e propri trattati, però non è sufficiente a impedire la guerra e il conflitto. Quindi in realtà l'osservazione di Molinelli, detto anche Molligiani, non era in questo senso, era un'osservazione molto più sottile, perché diceva, vabbè, ma chi è il soggetto qui? In fondo, quello che abbiamo detto, col deperire degli stati nazionali, in realtà abbiamo di fronte il fenomeno multinazionale, eccetera, eccetera, per cui non si capisce più bene chi sta confliggendo con chi. E quindi lui mi diceva, ma non è che questa guerra è qualcosa di manovrato da finti nemici, che sono i veri attori della scena, e che trovano conveniente il conflitto per affermare un loro sistema di potere. Se ho capito era questo. Quindi in realtà non state dicendo cose diverse. State attenti però a utilizzare la stessa parola scivolando da un significato nell'altro. Questo comunque fa parte del discorso sulla guerra che faremo. Fermo. Prani. Sì. Il rischio con il passare del tempo è che non può cambiare anche il giudizio. Il tentativo che si sta facendo ai giorni nostri è quello di cambiare, ad esempio, tutto il ragionamento rispetto ai partigiani. È ovvio. Ma questo progetto politico, secondo lei, o questo nuovo modo di definire il terrorismo piuttosto che i partigiani, può comunque essere fatto scientificamente? Allora, veniamo, governi, devo andare veloce, okay. Ho già capito la domanda. Allora, il termine revisionismo come nasce? Nasce nell'Europa dell'Ottocento, dopo la guerra franco-tedesca. I tedeschi avevano teorizzato la loro guerra, si disse, i tedeschi hanno vinto perché hanno una scuola storiografica superiore a quella francese. Anche perché obiettivamente la scuola storiografica tedesca aveva offerto una serie di argomenti circa la germanicità di territori come quelli d'Alsazia e Lorena. Quando dopo la pace ci fu il movimento revanchista in Francia, il revanchismo si appoggiava su una teoria revisionista, nel senso di rivedere i trattati. E revisionismo si definirà anche la corrente politica che voleva rivedere il Trattato di Versailles. In tutti i casi questo era appoggiato da un'operazione storiografica per cui si segnalava come quella pace avesse violato lo spirito dell'ordine westfalico. Chiaro? Quindi questo è normale che sia così. Ogni vincitore afferma la sua verità, però naturalmente siccome nel tempo poi i rapporti di forze mutano, se lo sconfitto o il parente dello sconfitto, più delle volte, riesce ad affermare, o anche il nuovo venuto che semplicemente vuol demolire l'egemonia culturale di quello che trova. Guardate, Berlusconi, io non credo che sia fascista nonostante la sua passione per le citazioni storiche, oltre bisognerebbe fare una proposta di legge per proibire ai nostri uomini politici fare paragoni storici, perché sono delle bestie, non conoscono veramente nulla. Cioè, questa è una tragedia questa cosa, perché oltretutto sono degli ignoranti terrificanti. No, il problema è che probabilmente Berlusconi in periodo fascista sarebbe stato antifascista. A Berlusconi del fascismo e dell'antifascismo probabilmente non interessa assolutamente nulla, interessano molto più probabilmente i suoi affari personali. E naturalmente lui poi è portatore di un progetto politico, di un'identità politica particolare. Il fenomeno Forza Italia è un prodotto dell'incontro fra la storia nazionale e i processi di globalizzazione, è questo. In questo quadro lui deve contrastare una sinistra la cui principale ragione di legittimità è la resistenza, l'antifascismo, eccetera. E improvvisamente lui fa questa operazione di revisione storica non tanto perché poi veramente gli interessi riabilitare la memoria della buonanima, quanto piuttosto demolire le ragioni della legittimità dell'avversario. Quindi questo in politica è moneta corrente che si facciano queste cose. Spetta a chi dovrebbe fare storia in sede scientifica farla in modo diverso, quindi non, guardate, come diceva Salvemini, autore che io non amo molto, che però, sapete, per il principio per cui anche un imbecille può dire una cosa giusta, anche Salvemini ha detto una volta una cosa giusta, lui diceva: l'obiettività è una chimera, l'onestà intellettuale è un dovere. Io nella prima lezione vi ho detto che la prima operazione di onestà sta nel fatto di tirar fuori la carta d'identità e dire io sono questo, in modo che l'interlocutore sappia chi sei e quindi filtri quello che gli dici anche in base. Detto questo però, poi c'è un obbligo che è quello di considerare quello che stai facendo con la normale onestà intellettuale dello scienziato, quindi con molta laicità, per cui questo significa riconoscere anche i torti della propria parte o della parte a cui si è più vicini, riconoscere le ragioni dell'avversario, eccetera. Questo significa soprattutto non deflettere da un metodo scientifico che nel nostro caso si basa soprattutto sui documenti, cosa che ormai sembra diventata. Certo che se anche gli storici, soprattutto quelli accademici, si mettono a fare i camerieri del principe, e il principe può essere da una parte o dall'altra, non c'è più speranza. Se però gli intellettuali non vengono meno al loro dovere, che è quello appunto di fare ricerca scientifica con la necessaria onestà, è possibile fare delle operazioni scientifiche. Chi c'era? Bene? No, Mengo, pardon, scusi, Mengo, dica. No, io avevo una curiosità, nel senso che riguardo sempre la storia del 15 settembre, però vabbè, rischio di essere un po' lunga, perché teoricamente il mio dubbio riguarda sempre gli attori in gioco, che è, diciamo, una domanda un po' da milioni di dollari, nel senso che, cioè, ho sentito una voce che diceva che durante l'attentato del 15 settembre le forze aeree del sistema anticontro NORAD fossero già impegnate in un'esercitazione che prevedeva una cosa simile, per cui non erano stati in grado di capire effettivamente la minaccia e no. Cioè, questo mi sembra una cosa un po' deliberata, nel senso che se tu proprio quel giorno già lo sai, perché probabilmente lo sai, non è che puoi non saperlo, che questi si muovono, non te ne accorgi, nel senso, sono davvero un accidente da carne, altrimenti. Nel senso, mi sembra una cosa un po' deliberata, però ovviamente è una considerazione. Quindi? Ho capito. Allora, Io le rispondo che se questo episodio corrispondesse a verità, questo andrebbe nel senso probabilmente dello scenario per cui si prevede l'azione, ma la si prevede come molto meno potente, o forse semplicemente si avevano notizie confuse. Sicuramente c'è una cosa, c'è un prete francese molto amico dei palestinesi che alcuni mesi prima rilasciò un'intervista e disse: ma guardate, i dirottamenti aerei sono una cosa che diciamo i terroristi arabi fanno, gli attentati suicidi con le auto eccetera eccetera è un'altra cosa che fanno, se dovessero sommare tutte e due le cose potremmo avere un attentato suicida fatto con gli aerei. Questo fu detto il luglio precedente, quindi il sospetto che questa voce andasse in giro c'è, non sarebbe strano. Però io le ritorco la domanda: che documenti abbiamo che ci attestano la verità di questo episodio? Può essere vero, io però faccio lo storico e questa voce l'ho sentita anche io, ma non ho trovato uno straccio di documento che la provi. Ecco che appunto il dovere dello storico è quello di registrare il fatto: c'è una voce, un dubbio, un'ombra, però è un dubbio. Quando avremo i documenti cercheremo di capire meglio, per ora mettiamo da parte. Bene, ultimo e poi iniziamo la lezione perché vi siete scatenati oggi, dimmi. Cioè lei sta dicendo: come mai gli attentati sono stati concentrati nella prima fase, a parte il 2001, 2004 a Madrid, 2005-2006 a Londra, non me lo ricordo. È la breve distanza, era subito dopo. Mi pare un annetto dopo. Beh, però va detta anche un'altra cosa, che ci sono stati anche Bali, c'è stata anche Sharm el Sheikh, c'è stata anche l'attentato a Mumbai. Vero è che si tratta di episodi diversi, non è detto che siano ascrivibili alle stesse, sì, però tenga presente una cosa, tenga presente appunto il meccanismo con cui funziona il terrorismo islamico, che diciamo fondamentalista, che è tale per cui non è Al-Qaeda direttamente, tutti questi attentati sono delle cellule abbastanza indipendenti fra di loro. Qui dovremmo capire meglio come funziona il meccanismo, cioè fino a che punto c'è un input specifico che parte e fino a che punto invece questo sia l'effetto di nuovo. Vi ricordate che io vi ho fatto la differenza fra il segnale continuo e l'onda, no? Il segnale continuo è per esempio una scossa elettrica che va lungo un cavo di rame. L'onda è invece un corpuscolo che muove il corpuscolo vicino, che muove il corpuscolo vicino, eccetera. Ora è evidente che il suo ragionamento avrebbe un senso, lei sta dicendo quanto c'è di deliberato in tutto questo, è vero? Di deliberato è non, diciamo, un interesse del mondo arabo islamico. Certo, è questo il senso. Però attenzione, è anche intanto qualche dubbio, perché la strage di Atocha, se fossero stati gli americani a ispirarla, begli imbecilli, ha avuto come risultato il ritiro della coalizione non solo della Spagna, del Costa Rica, del Salvador, di una serie di paesi ispanofoni, quindi non è che sia stato questo capolavoro politico. Però il problema è questo: la sua osservazione da un punto di vista metodologico avrebbe un senso se il terrorismo islamico, o viceversa il terrorismo fintamente islamico, agissero sotto forma di comando di catena di comando diretta. Se invece il fenomeno ha una struttura di natura ondulatoria, questa osservazione non avrebbe ragione di essere, perché l'azione non sarebbe immediatamente prevedibile e deliberabile. Io posso lanciare un segnale per cui so che abbastanza probabilmente fra le 50 persone che mi stanno sentendo, due faranno una certa azione, magari una fra un'ora e una fra due ore. Però non posso esserne sicuro, possono essere tre, possono operare dopo un'ora o dopo 10 giorni, possono essere uno, può per una ragione qualsiasi non esserci la ripresa del mio messaggio. Quindi noi ancora non sappiamo esattamente, possiamo avanzare delle ipotesi. L'ipotesi più probabile è che questo sia un movimento che proceda in modo ondulatorio. Poi lo sapremo se e quando questa storia finirà e qualcosa di più verrà fuori. Beh, basta così. Anche perché, ragazzi, qui è rimasto un quarto d'ora, sì e no, e io questa lezione non riuscirò a farvela tutta in una dose. Allora, oggi parleremo della seconda parte del dark side della globalizzazione, che è quella della criminalità organizzata. Beh, prima di tutto c'è da fare una considerazione generale. Nel Novecento si produce un fenomeno che possiamo definire come rivoluzione criminale. Di cosa si tratta? Nella storia dell'umanità, per definizione il crimine è devianza, eccetto periodi molto circoscritti, il crimine non è mai stato in grado di influenzare, per esempio, l'andamento dell'economia o della politica su un piano generale. Il crimine era riservato alle classi socialmente più povere, non che mancasse una criminalità dei ceti alti, dei colletti bianchi, ma assumeva forme diverse. Soprattutto il crimine organizzato, si può dire che c'è stata l'eccezione della pirateria nel XVII e XVIII secolo, anche del XVI, ma salvo queste eccezioni, tendenzialmente il crimine è sempre rimasto un fenomeno abbastanza circoscritto. Tanto per cominciare, in genere a zone rurali o montane, il crimine organizzato, il brigantaggio. Oppure nelle città era limitato ai quartieri più poveri e più degradati. La casba, quello che spesso per analogia viene definito la casba, il suburbio. E dagli anni 20 il discorso cambia, dagli anni 20 nasce una criminalità organizzata, potente, che sempre più potente, che è finita per diventare un vero attore dello scenario geopolitico. La criminalità organizzata oggi muove masse di denaro estremamente ingenti. Già negli anni 90 la Corte dei Conti calcolava che il 15% del debito, dei titoli debito pubblico dello Stato italiano fossero nelle mani di organizzazioni criminali. Si calcolava già nei primi anni 90 che la riserva complessiva di denaro fruttata dal traffico degli stupefacenti ammontasse a qualcosa come 350 miliardi di dollari. Forse era una stima per eccesso. In ogni caso era una stima estremamente ragguardevole, non saranno stati 350, saranno stati 100, comunque era una cifra assolutamente consistente e realisticamente questa cifra è cresciuta. Però per capirci dobbiamo fare una distinzione iniziale fra soggetti di tipo diverso, che noi spesso chiamiamo con lo stesso nome. c'è un'organizzazione che noi chiamiamo mafia, e questo nome abbiamo finito un po' per appiccicarlo a vario tipo di organizzazioni criminali. E in realtà no, dobbiamo fare una serie di distinzioni. Intanto dobbiamo distinguere nettamente fra il crimine di strada e il crimine coperto. Il crimine di strada, la rapina, la violenza, tutto quello, lo scontro fra bande rivali di via Padova, quello di cui normalmente si diletta a parlare il Corriere, è l'aspetto più vistoso della criminalità ed è quello in genere percepito come la principale minaccia alla sicurezza. In realtà è il fenomeno più innocuo. Il fenomeno più pericoloso è il crimine coperto. Adesso ne parleremo meglio. Seconda distinzione, bisogna distinguere fra attività criminali strettamente connesso al precedente, fra attività criminali marginali e crimine organizzato. Il gruppetto di spacciatori senegalesi, italiani o albanesi che sia, sì, fa parte del sistema internazionale della droga, della grande criminalità organizzata, dalla quale va a procurarsi la droga da vendere pagandola. Però in genere si tratta di piccolissimi gruppi che non possono essere identificati come grande criminalità organizzata. E a livello di grande organizzazione dobbiamo distinguere fra due nozioni molto diverse fra loro: mafia e organizzazione criminale transnazionale. Sono due concetti diversi. Bene, cos'è la mafia? Per definire la mafia occorrono 8 criteri. Possiamo definire organizzazione mafiosa un'organizzazione che abbia queste caratteristiche. Primo, controllo di un territorio. Secondo, controllo di un territorio. Secondo, capacità di imporre ordine e dominio, oltre che sul territorio, più in generale anche quindi come autodisciplina, e quindi senso della gerarchia e obbedienza, è la terza caratteristica. La quarta è la segretezza e l'iniziazione. Una mafia è sempre una società segreta. La quinta è la dimensione etnico-familiare. La mafia ha sempre una caratterizzazione etnica e una struttura di tipo clanico familiare. Sesto, poliedricità criminale, cioè una mafia non è mai... Prego? Ho sentito una domanda? No, vabbè. Una mafia non è mai un'organizzazione impegnata su un solo fronte, ha sempre una pluralità di interessi. Settimo, carattere mitologico e leggende. Una mafia non è mai un fatto puramente criminale, è un fatto spesso a carattere culturale che vive anche di un'autorappresentazione di sé, di miti e leggende che sono la base dei rituali, per esempio, di iniziazione, del principio di identità, della propria etnicità. Ottavo, carattere longevo e perenne, cioè radicamento storico. Se noi consideriamo questi 8 criteri, identifichiamo 9 mafie principali. La mafia vera e propria, cioè Cosa Nostra siciliana, la mafia Cosa Nostra americana, USA, che è distinta, anche se è in ottimi rapporti con la precedente, l'Andrangheta calabrese, la Camorra napoletana, la Sacra Corona Unita pugliese, le triadi cinesi, in particolare della zona di Shanghai, la Yakuza giapponese e la mafia albanese kosovara è la mafia con due F e la Y turca. Queste sono le uniche organizzazioni alle quali in genere si riconosce il carattere di mafia per via delle loro caratteristiche di etnicità, territorialità, gerarchizzazione interna, carattere di organizzazione segreta, eccetera, eccetera, eccetera. Attento, ci sto venendo. Esempi invece di organizzazione criminale transnazionale possono essere la cosiddetta mafia russa, che tale non è, o il cartello di Medellin in Colombia, o le organizzazioni criminali di Brasile e Senegal, Senegal o anche Nigeria. Sono cose diverse. Perché? Primo, prendiamo il caso della mafia russa. Primo, la mafia russa non ha una tradizione, non ha una tradizione etnica e storiografica particolarmente riconosciuta. Esiste grosso modo un ceppo, che è quello uzbeko, che fa particolare fortuna nel periodo in cui c'è, al seguito di Brezhnev, ci sono i clan uzbeki che fanno carriera nella Russia sovietica. Però è un fenomeno relativamente più recente, non ha i caratteri culturali propri, per esempio la mitologia tipica delle organizzazioni mafiose, il radicamento storiografico. Rapidamente si è estesa inglobando gente di appartenenza etnica diversa. La mafia russa sbarca a Mosca, ha per esempio un importante radicamento nel Caucaso, in Georgia, in Cecenia. Di solito è un fenomeno abbastanza recente, inizia dagli anni 60, da quando le burocrazie regionali del Partito Comunista Sovietico, per svolgere una qualche pratica di arricchimento privato, si affidano ad organizzazioni criminali locali. Questo fa nascere un nuovo soggetto che poi man mano ha avuto una sua unificazione. Però la mafia russa non ha la caratteristica organizzativa di Cosa Nostra, non so se mi sono spiegato, non ha un carattere di unicità, è abbastanza più disorganica. Ad esempio, un'organizzazione simile alla mafia russa è piuttosto la Banda della Magliana romana. La Banda della Magliana romana, prima di tutto, non ha un controllo del territorio paragonabile a quello siciliano, per esempio, ma è più recente, non ha i caratteri di, come dire, culturali della mafia siciliana e soprattutto ha avuto una stratificazione reticolare. Era una serie di bande di quartiere più o meno collegate da rapporti di collaborazione o più spesso di conflitto, infatti in genere sono ammazzati fra di loro, e chi ha visto il film sulla Banda della Magliana capisce di cosa sto parlando. Quindi l'organizzazione criminale transnazionale perché composta spesso da persone di etnia e nazionalità diverse e soprattutto proiettata con affari in direzioni molto diverse. Ad esempio, senegalesi e brasiliani esercitano il racket della prostituzione o dell'immigrazione clandestina verso l'Europa, verso il Nord America, eccetera. Però non hanno la caratteristica, che fatica, ragazzi, non hanno la caratteristica di organizzazione etnica gerarchizzata, culturalizzata, tipica della mafia. Quindi ho spiegato bene la differenza fra questi due fenomeni? Questi due fenomeni hanno un loro modello di successo nella mafia siciliana, cioè il fenomeno mafia ha un suo modello di successo nella mafia siciliana, come attestato dalla fortuna del nome. Mafia è un nome internazionale ormai, è utilizzato in Russia quanto in Brasile, negli Stati Uniti quanto in Italia o in Turchia. Quindi abbiamo ormai un fenomeno transnazionale in quanto fenomeno sociale, non in quanto organizzazione. Qual è la formula che ha fatto la fortuna della mafia? Guardate, gli studiosi, i criminologi tendono talvolta a fare un errore. Intanto c'è una cosa: la fortuna migliore della mafia è sempre stata quella di chi ha creduto nella sua inesistenza. C'è una strategia di lungo periodo per il quale per un sacco di tempo l'affermazione chiave è: la mafia non esiste. Fino ancora agli anni 50, primi anni 60, la classe politica italiana, i ministri dell'interno italiani sarebbero andati sicuramente in Parlamento a rispondere a un'interrogazione dicendo: ma no, quale mafia? Esiste un fenomeno criminale locale? Sì, certo, magari ci sono delle caratteristiche culturali locali che possono, però la mafia non esiste. La mafia in quanto soggetto organizzato. Questa è stata la riserva strategica maggiore della mafia. Uno dei fenomeni di minimizzazione è quello di ritenere la mafia un semplice fenomeno antropologico sociale. La mafia esprime, questo lo troverete anche in autori del tutto insospettabili, come lo storico inglese Hobsbawm, che peraltro è di scuola marxista, che dice: no, guardate, la mafia è il prodotto di natura criminale della resistenza di alcuni ambienti ai processi di modernizzazione. Società particolarmente tradizionali, in cui è radicato il sistema di valori tradizionali, resistono al processo di modernizzazione, fra l'altro dando luogo a fenomeni di natura criminale come la mafia. Ma la mafia appunto è, guardate, questa operazione non è infondata, ha un fondamento di verità. Quello che c'è di criticabile è la sua parzialità. In effetti, nel processo di formazione delle mafie c'è la persistenza di due elementi. Da un lato, effettivamente le mafie hanno un valore, hanno un sistema valoriale di tipo tradizionale. Il valore della pensiamo alla mafia siciliana, il valore della famiglia, il maschilismo, per cui le donne nella mafia non sono le mogli dei mafiosi e possono occasionalmente svolgere un ruolo ausiliario o di supplenza dell'uomo di famiglia che è stato ucciso o è stato arrestato e detenuto. Ma alla mafia in quanto tale non possono appartenere donne. Altra cosa, la mafia ha un forte carattere culturale, proprio esiste un'antropologia specifica. Ad esempio, della mafia non possono far parte omosessuali. Non possono far parte persone che non sono ritenute uomini d'onore. Quando Buscetta viene processato e c'è il confronto con Riina in tribunale, Riina rifiuta il confronto con Buscetta e dice al giudice: Buscetta, tra parentesi, era noto nel linguaggio siciliano come Fimminaro, quindi in quanto tale, intendiamoci, il mafioso può tranquillamente avere le sue pratiche adultere, però deve comunque preservare la famiglia, non può venir meno ai doveri rispetto alla moglie, rispetto alla famiglia ufficiale, diciamo, soprattutto non deve praticare alcune cose, come per esempio la pedofilia. Di Buscetta si sapeva che in Brasile c'era stata una storia piuttosto bruttina, terminata con la morte di due ragazzine di 13-14 anni che sarebbero state sepolte poi nel giardino della sua residenza, una storia piuttosto torbida. Quando, alludendo a questa storia, Riina dice al giudice: signor giudice, io non posso parlare con uno che non è un uomo d'onore, con un disonorato. Fimminaro disonorato, cioè non posso rivolgergli la parola. Ecco, guardate come la mafia ha un suo sistema valoriale. Poi probabilmente Rina ha utilizzato questo espediente anche per rifiutare il confronto, siamo d'accordo, ma è importante la motivazione che lui offre, ed è una motivazione che ha una forte caratterizzazione culturale. Ecco, sono alcuni esempi, la pianto qui, per dimostrare come la mafia abbia questo radicamento culturale e territoriale, e questo radicamento che esprima delle culture premoderne. Questo non c'è. Quindi l'aspetto della resistenza alla modernità è certamente presente nel fenomeno delle mafie, però attenzione, è solo la metà del discorso, perché poi, similmente a quanto abbiamo detto con Al-Qaeda e il fondamentalismo islamico, la mafia ha subito un processo di adeguamento alla modernità, cioè mantiene una sua identità valoriale premoderna, e anzi la marca con particolare forza, perché quello è uno degli elementi su cui fa perno per la compattezza interna, per giustificare e legittimare la gerarchia interna, l'obbedienza che viene richiesta, ma nello stesso tempo accetta di darsi una dimensione organizzativa non puramente premoderna, non puramente la rete clanica, ma la vera e propria organizzazione nel senso weberiano del termine, di organizzazione razionale, artificiale. E qui dobbiamo introdurre una nuova distinzione fra mafia e Cosa Nostra. Mafia è inteso anche come sistema di valori, come costume. Una volta Marcel Padovani chiese a Giovanni Falcone: ma scusi, i mafiosi sono criminali? E Falcone la interruppe e disse: no, signora, Marcel Padovani era la corrispondente del Le Monde. Dice: no, chiariamo un concetto. Ci sono molte, distinguiamo fra mafia e Cosa Nostra. Ci sono molte persone di mentalità mafiosa che non sono affatto criminali, che sono persone per bene, ma hanno una mentalità di tipo mafioso. Cosa Nostra, l'organizzazione, è un'altra cosa. Scherzando, uno dei miei amici è Ciccio Laricata, Francesco Laricata, che è uno dei, forse il maggiore giornalista antimafia che esista in Italia, e che era amico personale di Falcone e autore della biografia di Giovanni Falcone, anche perché da ragazzini erano amici, quindi c'è. Allora una volta, scherzando, dissi a Francesco Laricata: dico, Ciccio, ma quando Giovanni Falcone parla di persone che hanno una mentalità mafiosa ma non sono criminali, sono persone per bene, parlava di se stesso o parlava di te? E Ciccio mi ha risposto ridendo, dicendo: forse di tutti e due. Cioè, in realtà esiste un codice d'onore che non è di natura criminale, che è condiviso. Attenzione, quindi mafia, e su questo equivoco si è sempre giocato Vittorio Emanuele Orlando, già presidente del Consiglio, presidente del Consiglio che ha portato l'Italia alla vittoria di Vittorio Veneto. Vittorio Emanuele Orlando, in un discorso del 20 a Palermo, dice: qui si dice la mafia, ma se la mafia è senso dell'onore, è rispetto dell'amicizia sino alla morte, è capacità di rispettare il silenzio, è obbligazione rispetto alla propria famiglia, eccetera, eccetera, eccetera, io sono mafioso e sono orgoglioso di dirmi tale. Cioè, ecco, guardate, questo, c'è questo aspetto del discorso. Tutt'altra cosa è il suo risvolto organizzativo, che è Cosa Nostra, che è un'associazione segreta che utilizza questi elementi. Attenzione, fra le due cose c'è un rapporto. L'organizzazione segreta fonda la sua legittimità su quell'apparato culturale antropologico, però adotta criteri organizzativi tipici di un'azienda, di un partito politico, di un'organizzazione moderna. È chiaro? E con una dimensione militare, ovviamente. E beh, perché altrimenti? Quindi, come vedete, la formula base è questa. Una formula che somma aspetti di identità etnica tradizionale con una pratica organizzativa di tipo moderno. Questa formula ha poi uno sviluppo in un processo che io definirei di criminalizzazione della politica e politicizzazione del crimine. La mafia scopre attraverso la territorialità l'importanza della politica, scopre gli enti locali, scopre quanto è importante avere un avvocato che sia anche un deputato e magari sottosegretario alla giustizia. Scopre quanto è importante eleggere parlamentare quel deputato. Attenzione, la mafia non aspira, dopo ne parleremo, a governare direttamente lei con suoi uomini. Questo non è una delle caratteristiche della mafia. La mafia tende a influenzare il potere, per esempio eleggendo uomini di sua fiducia. E qui nasce il problema molto serio del cosiddetto terzo livello. Il discorso nasce negli anni '80 quando si dice c'è stata una mafia iniziale che era quella rurale, il primo livello, che era proprio... Poi c'è stato un secondo livello che è la mafia urbana, che comincia ad avere una rete clanica di tipo artificiale, ma poi c'è un terzo livello, il terzo livello politico, che è quello che dirige la mafia, la cupola. E qui il discorso si fa molto scivoloso, perché ci sono autori che prenderanno molto sul serio il discorso della cupola, autori che lo negheranno, che diranno ma va, la mafia dà ordini, non ne prende. In realtà è un terreno molto scivoloso. Roberto Scarpinato, che è uno dei magistrati antimafia più impegnati, tra l'altro uomo di raffinata cultura sociologica, una volta mi disse, ma sai, il rapporto è fra la lupara proletaria e il colletto bianco professionale. Cioè, la mafia in quanto tale, in quanto organismo militare, in quanto gruppo di potere, si fermerebbe in questo senso al secondo livello. Però inevitabilmente la mafia, per svolgere la sua attività, deve interagire prima di tutto con i professionisti, poi vedremo il perché. Avvocati, e beh, si capisce, commercialisti, avvocati d'affari, anche qui si capisce, imprenditori, banchieri, politici. Questo tipo di persone difficilmente appartengono all'organizzazione criminale in quanto tale, cioè non passano per i riti di iniziazione, non sono, per usare l'espressione calabrese, ponciuti, cioè non hanno subito il rito di adesione per cui viene punto il dito o il polso, c'è qualche goccia di sangue che viene fatta scorrere sull'immaginetta del santo che viene bruciata e che simboleggia, diciamo, la promessa di fedeltà all'organizzazione. Quindi, diciamo, non è una persona passata per il rito di iniziazione, però è una persona che orienta l'azione della mafia, consigliando spesso è la persona che investe i capitali di mafia, che consiglia politicamente cosa è opportuno fare per ottenere una legislazione più favorevole, che indirizza per esempio la mafia verso un paese dove possono esserci affari interessanti piuttosto che un altro. Però non è esattamente gode di un ascendente, gode di una credibilità, ma non è un superiore gerarchico. Ecco, questa è la sfumatura, tant'è vero che noi abbiamo dovuto elaborare una categoria giuridica un po' azzardata come il concorso esterno in associazione mafiosa, per cui tu concorri senza stare dentro. So, è un po' una doppia capriola, però è questo il senso. Quindi la mafia ha questo tipo di struttura che ne caratterizza il modo di agire. Per capirlo dobbiamo capire le tappe attraverso cui si è trasformata la mafia. Vedete come la storia serve a capire il presente. Perché per esempio scoprirete che non tutte le mafie sono uguali, anzi la Yakuza è diversa dalle triadi, che sono diverse dalla mafia siciliana, la quale è diversa anche dalla mafia americana. La storia in organizzazioni di questo tipo, che hanno un forte radicamento etnico-culturale, è una spiegazione molto importante del loro modo di essere, del loro comportamento. Ecco, vedete come torna il discorso della storia a spiegazione del presente. Bene, la mafia ha avuto prima una sua fase rurale in cui il controllo, il problema era il controllo del feudo. Spesso si trattava semplicemente dei camperi, cioè dei mazzieri che assicuravano la docilità dei braccianti, e che poi man mano ingrassatisi magari comperavano il fondo, parte del fondo, dal loro ex padrone, magari perché il loro ex padrone si era giocato tutto a carte al Circolo dei Nobili di Palermo. Questo processo di accumulazione produce per esempio la prima usura. Questa è la mafia tradizionale, ma questa mafia tradizionale inizia ad interfacciarsi con i professionisti, con i colletti bianchi, già negli anni 20. Questo processo verrà brutalmente interrotto dall'arrivo del prefetto Mori, che con metodi non esattamente i più garantisti, diciamo così, era riuscito a colpire duramente la mafia rurale. Era rimasta però, sia pure inibita, ma comunque potente, la mafia, cosiddetta mafia dei colletti bianchi. Il discorso tornerà dopo l'occupazione americana della Sicilia, in cui la mafia offre i suoi servizi. Ma fino agli anni 50 la mafia resta un fatto prevalentemente rurale. Dalla metà degli anni 50 nasce una cosa, il sacco di Palermo. Grandi affari immobiliari, la mafia arriva a Palermo prima di tutto seguendo, prima controllava i campi, dopo segue i prodotti dei campi fino al mercato ortofrutticolo di Palermo, dove impone il pagamento di tangenti. Ma questo non solo a Palermo, guardate che le famiglie mafiose collocano il prodotto ortofrutticolo in quegli anni anche a Milano. Il mercato ortofrutticolo, l'ortomercato, che prima non era dove è adesso, era in Largo Marinai d'Italia, dove c'è la Palazzina Liberty e dove si facevano le contrattazioni, era controllato in buona parte dalla mafia siciliana. I camion che avreste visto e che quasi tutti erano residuati bellici dell'esercito americano, avevano targhe regolarmente, Palermo, Ragusa qualche volta, Trapani. La mafia inizia così a scoprire gli affari della città. La mafia si occupa del racket dei cimiteri, inizia a organizzare il racket della prostituzione, inizia ad organizzare il racket degli appalti nelle città. Qui c'è una cosa da capire, ragazzi, spesso si fa una confusione terrificante a proposito degli affari di mafia, di come la mafia controlla gli appalti. C'è una legislazione antimafia totalmente sbagliata, perché l'idea era che la mafia lavorasse sul subappalto. La mafia aveva un diverso tipo di contratto, si specializza in due cose. Il movimento terra e la fornitura, i contratti della mafia sono contratti di nolo e di fornitura. Allora, se voi dovete costruire un palazzo, avete bisogno di materiali da costruzione da trasformare in cemento, quindi di raschiare le rocce da sbriciolare e trasformare in cemento. Avete bisogno di escavare, avete bisogno di collocare da qualche parte il terreno e così via. Per fare questo avete bisogno di una serie di macchinari, ruspe, caterpillar, eccetera, che difficilmente un'impresa di costruzioni assume in proprio. Il più delle volte, perché questi macchinari hanno un problema, sono difficilmente custodibili e quindi richiedono poi depositi, cioè che hanno un costo piuttosto elevato. È molto più conveniente rivolgersi ad un'azienda che fa quello per mestiere e che ti fitta quindi con un noleggio quelle macchine, oppure svolge per te il lavoro di fornitura, ad esempio, del materiale da costruzione, per cui questi scavano le montagne che poi voi frantumerete per ricavare il cemento. Quindi il loro contratto è un contratto di nolo di fornitura e voi potete fare tutte le leggi che volete su subappalto, non colpirete mai la mafia perché non è quello che fa. Di qui poi è venuta fuori un altro interesse di mafia, proprio perché la mafia lavora ovviamente in spregio a qualsiasi normativa di tutela ambientale, questo sa va san dire, la mafia sa dove esistono caverne più o meno naturali e quindi, per esempio, la mafia è oggi in testa all'affare del riciclaggio dei rifiuti. Ve lo siete chiesti perché tutti questi rifiuti vanno in campagna? Perché a Napoli c'è questa emergenza? Perché la mafia utilizza le discariche, magari in posti assolutamente igienicamente proibitivi, per scaricare i rifiuti importati da altre regioni. Perché è nel business del riciclaggio dei rifiuti, che è una prosecuzione logica di questo retaggio storico che è la scoperta del business del mattone o del cemento, più probabilmente. Non è un caso, guardate, che la mafia ha, vi ho detto, un carattere altamente simbolico in tutte le sue azioni, non è un caso che una delle pratiche più diffuse della mafia, la cosiddetta lupara bianca, consisteva nella soppressione di una persona che poi veniva infilata in un plinto di cemento all'interno di un palazzo. Era quello il modo di farlo sparire. Cioè, vedete come era stretto questo rapporto. Lì la mafia diventa mafia urbana. Ma nel frattempo arriva un altro grossissimo business, quello della droga. E guardate, fino agli anni 50, solo che qua stiamo finendo, vabbè, riprenderemo dopo, ma finisco di dirvi questa cosa. Fino agli anni 50 le droghe non erano proibite. Le droghe erano in libera vendita nelle farmacie salvo prescrizione medica. Mi ricordo ancora, mio cognato era medico e faceva l'anestesista e aveva un ricettario bianco per le ricette ordinarie e un ricettario di carta rosa che era quello su cui poteva prescrivere eventuale uso, per esempio, un ammalato di cancro, e allora gli prescrivevi la morfina come antidolorifico, no? E solo con i primissimi anni 60 che arriva la proibizione dell'uso delle droghe, tutt'altro tipo di regolamentazione, si colpisce. E la mafia lì scopre un grande business. Guardate, una delle caratteristiche di mafia è questa. Quando lo Stato proibisce qualcosa, la mafia se ne fa direttamente imprenditrice. Gioco d'azzardo proibito, e immediatamente nascono le bische clandestine. Proibita la droga? Benissimo, organizziamo subito la vendita della droga. E così via. Quando invece lo Stato permette attività lecite, la mafia ha questo atteggiamento. O esige il balzello, il pizzo sulle attività lecite svolte da, sto facendo segno che finisco, sì, svolte da attori commerciali comuni, oppure le assume, ma il più delle volte come attività di copertura e di riciclaggio. Questo è importante da capire. Nasce questo grande business, la droga. La droga è il business non del secolo, del millennio. Perché il costo di un grammo di droga, il costo di produzione, è un costo assolutamente minimo. Per di più quel grammo verrà poi tagliato con altre sostanze, poi ulteriormente tagliato. L'affare droga può avere anche un tasso di profitto del 10.000%. Nessun altro affare ha un tasso del genere. Non solo, ma la droga permette di fare molti altri affari, perché avendo un valore così concentrato, molto più dell'oro dei preziosi, ad esempio il traffico d'armi spesso avviene con il pagamento con valigie di eroina. allo stato puro. Quindi permettere avrà anche un suo valore di scambio, diventerà una specie di moneta internazionale degli affari illeciti. Mi fermo momentaneamente qui, riprendiamo, riprendiamo giovedì, perché mercoledì è festa, e spero di finirvelo. Non ce la farò mai. Allora, dimmi. Volevo chiedere una cosa su Cristo, ho sentito la mia curiosità, ho fatto un po' di discorsi anche con amici così. Durante sia in passato che adesso, nei paesi totalitari, la mafia ha poteri limitati o anche vantaggiati? Perché noi diciamo questa curiosità che sia in casi che a totalizzare il potere, quindi questo può avvenire o attraverso la repressione pure semplice o attraverso l'assorbimento. In Sicilia il rapporto qual è stato? Repressa la mafia delle campagne, la mafia dei colletti bianchi viene assorbita. Grazie.